tic tac, faccio finta. Il tempo sgandisce le scene, eppure il male ed il bene. Ho quella fitta, mentre stringo la cinta. Non vedo più l'altalene, ma solo le sue catene. Da grande chissà, se sarò ricca. Non di soldi e tiro le iene. Io voglio solo star bene, guardo la mia sola felicità inizia. Un libro che forse mi appartiene, ha senso leggerlo insieme. In un'altra vita, sarò sparita. Non mi chiedo se mi appartiene. Se cresco troppo conviene, parete in tinta. Questa scala scricchiola, mentre la scendo mi tiene. Ma mi attraversa e poi cede, ho una rivincita. Musica e linfa, mi ricorda il cielo che splende. E tutto il resto mi lieve, poi scorre tic tac. Il tempo mi è qua e mi chino un sorriso breve. Presento a tutti piacere. Mentre correrò a prendere un posto lì, mi farò capire dove è casa mia.